essere scelto. C'ha quasi 100 watt modulati, quindi va più che bene così. Più che bene così. Se non si soddisfa, facciamo altro lavoro. Ma io ti consiglio di lasciarla stare così e non avrai mai problemi. Capito? Perché taratta a caldo. Una volta che taratta a caldo, io gli ho chiuso praticamente lo slider della potenza. Quindi lei, tu la accendi 10 minuti e lei modula sempre con gli stessi watt. E da lì non si sposta, anche se scalda. Soffre tutto. non è che è sempre fredda, non scalda molto. Non scalda molto perché è tarata bene. Io ci sono stato un paio di giorni cercando di capire il perché e il per come. Alla fine ho scoperto anche quello, capite? Perché non è stata mai toccata, nessuna modifica è stata fatta in quella radio. Però guardando con la lente il finale, mi sono accorto che non è da 25 watt il prefinale, il finale sì, da 25 watt, quindi un finale da 25 watt sopporta anche 40, per cui c'è 80 di picco, quello sono io che lo faccio andare un po' più avanti. Però quando tu le dai 100 watt di portante bianca a un finale di 25 watt, che la radio la distruggi, capito? Tutto lì. Dai signori, anch'io vi saluto, Luca, spegni tutto, Roberto, ciao, grazie delle due chiacchiere, devo portare il cane, ciao Filippo, amore di nonno, vieni, vieni, leccami le dita dei piedi. Chi c'è? Saluto, ma ci vediamo, buh, buh. Va bene, allora lui se stai chiudendo io ti saluto, ciao Claudio, porta Filippo, anche io allora ne approfitto, e niente, vado a vedermi un po' di TV, ciao Roberto, buona serata, buona continuazione. Una domanda Roberto, dove abiti tu a Ghero più o meno, la zona? Dove? Ah, quindi sei all'interno proprio, al centro di Agheo. Ah, positivo. Ma anche per noi abbiamo la casa lì, da mia mamma di Agheo, quindi la conosco bene Agheo. Luca, siamo. Luca, mi segnano Claudio. Positivo, Massimiliano qua, nominativo, io sono Bulldog. Là, vai, porta il cane. Ciao anche a te Luca, là. Io mi apro un po' il libro e mi faccio una mezz'oretta. Ci sentiamo, buona serata a tutti, ciao. Ciao Massimiliano, a domani, ragazzi, sì. Chiudo anch'io. Grazie. Alla prossima. Ciao, buonanotte a tutti. Comunque lui a livello a titolo informativo, se sono voi a provarlo, se lo vuoi provare, giusto, senza comprare, senza vedere, senza nulla, se lo vuoi provare te lo presto. Sì, capita l'occasione di provarci, ma sì. Io non sono a Corte Santa Maria da loro. La portante, voi che i tabacchini modificati. Niente, va. Cosa? Dio, ma cioè, che significato ha mettere tocca più importante? Fammi capire. Dimmi, cioè, spiegami, cioè, perché ti mettono la porta a te? Fammi capire, che significa qua? No, ma ci fosse una motivazione, ti stiamo disturbando, cazzo voi, cioè, fammi capire. Te stai cazzo che non c'è altro, quando parli tu te la metti la porta a te. Ma dimmi tu, cazzo, cioè, alle 11 di notte devo sentire se è stronzato io, cazzo, boh. Io lui, ma stai scherzando, io dalle 10 in poi devo essere a casa, poi c'ho la moto che mi si è staccato verso il tubo della benzina e non parte, quindi domani mattina devo riportarla dal meccanico alle 8 e sono incasinato perché c'è un paio d'ore di tempo per fare queste cose, capito? Organizzati, io sono qua a casa. Buonanotte a tutti, cioè buonanotte a tutti, se ci siete li prendo subito, devo portare in campo. In attesa che questa testa di minchia se la metta nel culo la portante o se ne vada a dormire, ma dimmi tu, tanto non ti ha riconosciuto nessuno, solo io ti ho riconosciuto. Lasciavi la bulita, già avrei la bombiera la portante. Stai attento che mi stai tutto comprendo, guarda. Quello che qua è forte. Dai, dai, continua a metterlo, non c'è problema, continua a metterlo. Sì, veramente, guarda, una persona squisitissima. Evidentemente sei, non sai che cosa fare. Stai pur certo che a me mi metti la faccia nel culo perché ti passo sopra. Mi dispiace che non sento gli altri. Non c'è problema, già passi, ce lo so io pieno, poi almeno avesse attaccato il microfono, invece no, è tolto l'eco, invece si sente bum bum bum bum bum bum, non sei manco intelligente, si vede che sembra più guglione. Mica meglio faccio le chiacchiere io. Voi cosa vuole, non ho capito, cazzo voi, che cazzo voi, non entra mai, e quando entra mette la portante, roba davanti. Dai, fammi portare il cane tu, va, sennò mi si girano le balle, poi quando uno cazzo si incazza e dice che no, che la frequenza non cambierà mai, comunque, già lo sentiamo io a lui, non ti preoccupare, quando lo sento parlare o l'amico dice, vedi che ti disintegreggio. Io ci sentiamo la maniera, che mi va a fare. Ehi, va bene. No, ma non ti copre, sento anche a Luca sotto, Luca del Monte. Aurelio non le fa niente. A Massimiliano mi copre, basta. Ci sentiamo dopo se ci siete. Robè, purtroppo a Sassari c'è una portante, non ti sento più. E alle prossime la faccio schiattare io alle 11 di notte. Non c'è una mattina presto quando parla. No, infatti è già tardi, ci sentiamo ragazzi. Lu, ci sentiamo domani, dai, ciao. Sì, ciao, ciao. No, per tutti. Buonanotte, ciao Luca, ciao Massimo. Ma io so quale ricordo un po' in frequenza, che sto parlando alcune cose su computer. Io, Roberto, riprendi va. Già salgo subito, vedi. E via. forte Elio Piuma da Usini. Sì, no, ho detto che riprende, porta il cane e poi riprende. Va bene. No, ti avevo sentito gli Alghero, sapevo che c'eri, ne aveva parlato qualcuno, non ricordo chi. Forse qualcuno di Usini lo stesso, Torino, ne aveva parlato di te, mi pare. Positivo, meglio così tanto in caso che potevo di soldi. io invece adesso devo andare a fare una questione, speriamo di sì, così almeno in caso Umberto, 12 anni, 1200 euro al mese, quanto sono 12 anni di lavoro? Chiama subito. No, devo ritirarli, sono un mese all'anno, capito, per la causa che avevo, quindi sono 12 anni, quant'è 1250 euro al mese? Per 12 anni? Ma io sono tirato manco di coperchi. Ci sono già versati, caro mio, ci sono già versati quelli, all'Inps solo, mi tocca il TFM, e cazzo, me la vai? Ma dice che ero già io il truffaldino. Tranquillo, quelli sono già tutti in banca, sono quelli. Sono circa 12.000 euro qualcosa, sono da. Già va bene, già va bene. Ok, e per me adesso mi è salito. Allora, sei già salito, sì. E io vado a Filippo qua sopra, prima fra tutti. Ma se mi cambio, e poi sono a posto. Quanto gli hai da mangiare a Pippo giù? Un coso, un cobra, cosa ne so io, un pezzo di porcetto? No, no, un gatto si è mangiato. Bastardo, un gatto. Scusate, sono tutti io, su, la gente non vede la mania. Come ti fare un Filippo, la ronda, più. Cercare bisogna che qualche giorno me lo presti in campagna mia, cercare i conigli, lo mettiamo insieme a Scubi, così facciamo l'affare, cazzo, facciamo l'affare con i conigli. No, riprendi io che mi cambio, eh. La Bellona X500, no, 510, la 500M, la conosci? Tra. Vabbè, sta cambiando, la come lo dici. Cos'è il Fuyu? La 500 però, la 510. Ho capito. Voglio sapere com'era, perché era un'offerta. Dovrebbe essere tu, ma... E dove te la vedi? Perché c'è la testa? Al petto la metto, perché tu la metti? C'è un casino quel palo, cazzo, aggiungi la carromba. No, metto anche due pali adesso, devo mettere. Uno per le HF, e uno per le UHF e UHF. Io. E come metto la direttiva? Là. No, la direttiva la metterò più avanti, te la metto là. Capito, non mi sposto in un'altra parte. Ah, va bene, va bene. Hai trovato già il posto. Ti trovo il posto c'è già. No, dove l'hai visto tu, no, laggiù. No, sto... L'estate, il traliccio, capito? Sto valutando questo traliccio da 12 metri, adesso vediamo. Va bene, facciamo tutto, quello che vuoi, guarda. Non c'è problema. E questo amico che sta procurando questo traliccio da 12 metri. E poi, adesso lo piacerò, vediamo. Capito? Meno male che l'acqua non ti fa nulla come ieri, va. Come al solito, cazzo. Qua l'acqua ci sembra che è una bellezza, ma anche perché dietro di me c'è il vallone, capito? Che poi è la stella che porta sotto il ponte di andare a Itti, capito? E lì c'è un vallone qua immenso. E meno male, cazzo, se no guai, ci avessi avuto la punta ieri sera, che meno male non ti ha toccato a te. Per niente, ma so sul seno di quello che ha fatto ieri, guarda. Non si è mai visto, io dico meno di 50 anni una cosa del genere, cazzo, un fiume di acqua. Ma acqua che io su Facebook, guarda, ti guardo i filmati o video. È una cosa allucinante, se dovessi essere stato per dire al centro storico, io dove sono le scalinate, avessi mi trovato sembrava l'acqua di coso, di hanno sfondato addirittura la fotografia bellezza addirittura. Quello che stavolta passeggiavano da sole, mentre aveva fiato, boh, una cosa allucinante, guarda, il ponte, visto quel ponte che ne è varato, cioè, se si trova la macchina in mezzo, ci rimane secco, cazzo, giusto giusto ci rimane incastrato. 4 metri di coso, se ne vado un ponte, fuori di testa, guarda, ieri. Una cosa mai vista, di piena estate. Ma quelle sono peggio, le capito, le tese estive sono peggio, sono quelle che vengono di fare l'anno, sono piogge tropicali, ma c'è da aspettarsi, perché mi ha colpito, la tipologia della Sardegna, figurati se non arrivo da qua. Sotto, purtroppo di quelle zone lì, capito, quelle lì prendono tutta l'acqua di Sempoli, e scende giù al sorso, e si convoglia lì, giustamente, capito. Bisogna stare nei paesi alti, tipo Usino, quelle cose lì, Usini e così via. Usini è alto, non Usini, Usini proprio non è molto alto, non è che sia alto alto. Forse è alto, vedi, forse va bene, per dire, però anche lì, vedi. Però le zone basse è un casino, cazzo. Ma sapete che Usi è alto, ma c'ha il paese è basso. E se scende l'acqua da sopra, mettere acqua anche Usi di acqua, non tutto comprato. Però il più alto di qua non c'è altro, capito, non c'è niente. Siamo noi e boh. E tutto il resto sono valli che scendono verso il giù. Già è vero. Quindi come scende l'acqua qua ci scende, capito? Invece a Usi, se non l'acqua ci scende a Usi, perché ci c'è la parte più alta di Usi, capito? Anche lui così, vabbè, speriamo che non succeda più niente, dai. Speriamo, no. Sono un gasotto, è un gasotto. Però che è vero, hai ragione anche tu. Come ascolti il radio? Come sono abbastanza buono, sì. Perfetto, non sei buono, perfetto, come sempre. E mi ha staccato quel trimmer, la verità, nel Midland, ho staccato il trimmer nel Midland 2009, ma è uguale ho fatto. Come nel mio. E come il tuo, esatto, sì, quindi vuol dire che già funziona. Se funziona sì, funziona bene. Allora è bomba, ogni picco. Yes, yes. Che bel qua, lei si trova il pigiarino. Sì, aspetta che sto facendo una telefonata. Pigliarino. Cazzo, mi ero trovato. La saliva di traverso. Ah? La saliva di traverso? Sì, la saliva di traverso, ma franco. Esagerato, stavica, sto facendo un... Ecco, ieri mi sono piazzato... Ho recuperato il pedalino. L'ho collegato, un C01 dell'Afanso, non lo so, lo conosci, un microfono studio a condensatore, l'ho collegato al mixer, con l'uscita l'ho collegato all'ingresso microfonico dell'apparato, però fa un casino, esce tutto fischiando, distrutto, a volume basso. Io non credo. Come ti vai? Perché la volta bisogna fare di come si deve, non così come pensi tu. Oh, cosa stai dicendo? Se esco dal mix direttamente cosa che problemi di là? Ti do un zio di là. No, non zio non va perché è collegato con la massa. Non c'è un zio. E allora, come ti devi questo problema, dimmelo tu. Anche tu sei tecnico, non sono solamente io, e tu sei tecnico audio, quindi dimmelo tu, qualche problema c'è senz'altro, ho collegato male qualcosa, i fili sono solamente 4. E vabbè, quindi li ho fatti, li ho collegati perfettamente, la portante, il locale sulla portante, che è il 7, è il centrale, e funziona, poi ho collegato l'1 e il 2, beh scusa, l'1 e il 7, no, l'1 e il 7, allora sei la portante, sì, fa un curioso di quei numeri, allora il 1 e 7 sono la radio. Sì. E l'8 e il 2 sono la portante. Cosa diciamo con le matte? Sì. Allora, il 7 e il 2 non sono la radio. L'8 e il 2 sono la portante, sì, è giusto. Eppure mi entra questo innesco allucinante. Basta abbassare e metti il coso, il guadagno, piano piano, e te la cucci subito. Ho abbassato per tutto, ho abbassato i volumi del mixer, il generale, il microfonico abbassato, e ho abbassato anche il gain, tutto a zero. Non ho fatto tutto il mixer. No, ti faccio una cosa del genere, io quando avevo l'ecco, quello al nastro, una bomba era funzionava benissimo, poi l'ho regalato, che ti ho fatto male a regalarlo, a far culo a me. Non c'è il cavo, qua ce l'ho. Adesso lo provo, lì, e te lo faccio sentire come esce. Prova, se il amplificatore te lo devi mettere il microfono normale, poi ti sollevi piano piano, puoi sollevare il volume, l'uscita, eccetera, eccetera. Adesso provo, aspetta, ti collego. Collega. Non c'è audio adesso. Infatti non sento niente. Adesso sì, solleva ancora. Cazzo, che sto microfono lontano. 1, 2, 3. Eccolo qua. Adesso sto sollevando il master del mixer. Vedi che sta uscendo, si sta manco fischi. Non so, regolati il resto. Se lo regolo, cosa c'è da regolare? Ma non so, cosa c'è il mixer, ecco, cosa c'hai, alti, bassi, cosa c'hai? Ma cosa c'avrai? No, ecco, non è questo, aspetta, quei bassi e metto solo gli acuti. Così sono a metà di bassi e a metà di midi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, com'è? Non mi piace la verità come audio. Solleva ancora gli alti, mettici gli alti, togli i midi, metti gli alti. È tutto alto adesso, aspetta un po' di bassi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola hola. Non mi piace a me, la verità. Sembra solo un microfono normale, non è che c'è un barattino che ti ascolta, però ti ricordo tu, magari te ne accorgi più di me la verità, così come stai riuscendo, comunque fischi non ne hai, visto che c'ho ragione io. E boh, ieri mi stava fischiando. Adesso c'ho la portante a pedale, sto usando il pedalino, capito? Sto scendo bene, quindi non c'è più nessun problema. Una volta io mi ricordo che tu avevi usato il mix e facevi la voce la nonna, la verità, quindi... Ehi, lo so, quello ho fatto 25 anni fa, però 30 anni fa. No, com'è adesso la radio? Bassa? È bassa? È buona ma non mi piace, rimane strana. Claudio, com'è? Brutta. Non è bella, ha ragione Antonio. Non è bella, aspetta. Proviamo a farlo lì. Ma è bassa di volume, cos'è? Com'è? Adesso sta migliorando. Allora va a passare il mio. Adesso com'è? 1, 2, 3. Sta migliorando un po', però c'è sempre quella sensazione di saturazione in pratica. Come se fosse gracchiante. Allora va sul gain. E adesso? 1, 2, 3. Non c'ha quello che sento io, capito? Non lo so. La verità. Non mi piace, no? Una sensazione di modulazione un po'. Come ti posso dire? Tipo soffocata, qualcosa del genere. Ma per fatto sembra ci sia, però rimane po'. Va bene, adesso faccio un po' di medi. Vedi un po', 1, 2, 3, vediamo un po' se mi metti in qua dall'apparato, 1, 2, 3, tolgo il processore. No, metti il processore, non toglierlo. Ok, messo il processore. Adesso aspettiamo il numero del master, del microfono e anche la lavorazione del microfono. 1, 2, 3, com'è? No, non va bene qualcosa, la verità non va bene quel mixer, col tempo non va bene, non si adatta per niente. Quella cosa lì andrebbe bene solo all'altro apparecchio che c'hai, la verità, ma il tempo non va bene, non mi piace. Vabbè, c'è anche di fare le regolazioni, mettiamo un po' di acuti, anche un po' di medi. Mi do un po' di cose, vediamo un po'. Adesso una cagata. C'è quella bella migliorata, ma non molto, E vedi adesso, 1, 2, 3, migliorate. Quella bella migliorata, ma non molto. Abbassa quella bella macchina. Metto giù della radio, la abbassiamo, guarda, lo sto mettendo quasi a 3, dai, così a 3. Ti lascialo così, dai, è migliorato un bel po' adesso, in confronto a poco fa. Che cazzo, aspetta che da lungo, però sono qua uno, che c'è una posizione balorda, l'ho messo. Comunque va bene, dai, più o meno. Più o meno già va bene, dai. Non va meglio, dovresti ascoltarti e regolarti con la verità, perché è meglio che ti regoli, cioè fatto così sui piedi non è che vai molto bene, però se ti regoli con il barattino vicino, cioè ce l'hai, grazie a Dio, quindi ti fai le cuffie, quindi fai la prova e ti ascolti, poi puoi mettere l'eco, se c'hai il mixer con l'eco, puoi mettere ciò che ti piace. C'è anche un compressore, un limitatore compressore, adesso vediamo un po' domani. Adesso sono a un metro dal microfono. Va bene, è un metro dal microfono. C'è una bella amplificazione adesso, stabile. È un metro sono. Un metro esatto. Sono molto lontano. Sai dove ce l'ho? Sopra adesso gli apparati. Io sono seduto giù, capito? E ho capito, comunque va bene, adesso ho migliorato parecchio adesso. Ma il basso di modulazione è alto, va bene? Ma c'è va bene, accettabile, diciamo che è accettabile. Ma lo posso anche alzare di più, di volume. Non c'è bisogno, sono sacco. Va bene, era un busto che volevo prendermi da tempo. L'ho fatto, però ieri mi innescavo, non ho capito perché. Com'è Claudio? Va bene, però c'è qualcosa che non mi convince. Dimmi che cosa, che non posso riuscire a regolarlo. Non lo so così. Sembra un po' cupa la modulazione, un po' strano. Vabbè, questo è un microfono a condensatore, da studio di registrazione. Però posso attaccarci anche un altro microfono che ho, uno diversi, e magari provare lo Shure, l'SM58, sicuramente è molto meglio. Dovresti provare quello lì a vedere. Ci metto molto, devo staccare il cavo blu e devo andare a prenderlo là nel magazzino, che ce l'ho là. Quello è. E dammi 2 minuti che vado a prenderlo. Ok. Ho modificato il MP5 Luca, che è anni a Radio Mondiale, Antonio. Ma da fare il apparecchio che c'ha? Il 140. Ah, Luca l'altro, io pensavo Luca Malinconio. Cioè, lo sai anche più di me, che va benissimo, il 140, 70, va bene, le cose, il MP5, il Sadelta, va veramente bene con i microfoni. Anzi, addirittura, secondo la tipica che stava molto meglio di altri due colleghi nel 1960, perché io uscivo da schifo, uscivo la verità, ma comunque sia, sono veramente bene così come sto uscendo adesso, sono contento qua, che con la pratica esce bene, almeno è contento e tranquillo per dire. No, beh, l'ho fatto perché lo merita, capito, tanto non lo uso, lo uso poco, quindi ho detto prendetelo tu, usatelo tu. E va veramente molto molto bene. E va molto bene, visto? Sto contento con lui. Adesso ho fatto fotogramme, speriamo bene adesso. Dipende da quello che mi dicono domani, non quello mai. Sapevo come una volta torno, anche forse anche più di una volta, perché lui disse ma guardate come stavo fatto così io, che pericoloso, non piace proprio per niente, faccio fare i fuori nel muro e anzi fuori niente, infatti con questa cosa zacche vecchie che lui ha fatto tagliare e metto zacche nuove, non mi interessa proprio un cazzo a me. Se poi io mi chiamo l'avvocato, io, ma lui mi ha tagliato, quindi sono problemi suoi. Mi piace, le gaffe lo vedevano prima, pare uguale, non me ne frega proprio niente, ci metto cemento a presa rapida, faccio fare l'ammuratore e così fate il lavoro perfetto, non devo stare cazzo così a farmi a girarmi le balle con questo palo così, provvisorio, no. C'ho paura, cazzo, proprio quando si tira il vento, cazzo, mi lo trovo giù in strada, ma non ho già tanto la presa mezzo chilo, se avessi avuto un'altra guai, sarebbe già scesa per dire, perché non puoi fidarti di due gaffe di 15 cm una all'altra, la carenghiera, che tenga un palo a 3 metri, come vibra la cazzo qui, stiamo scendendo la zacca intera, stiamo scendendo. L'altra volta l'ho spaventata, poi me ne vado durante in terra, ma ormai ce l'ho tirante. Qui voglio fare una cosa sicura, ben fatta, della mia in culo. Sfondo il muro come prima, stacco le tacche vecchie, lui mi ha tagliato e metto le tacche nuove. Dammi una fottinuta, chiamo un attore e lo faccio fare, l'ambulatore lo faccio fare. Ma chi la faccio, guarda? Io ho chiamato Luca e sto facendo tutto lui. Non voglio già bere, se gaggate, so che è un casino, se poi sbagli anche a me, capito? Mi stanno facendo il lavoro, la gente esperta, gente che lo sa fare, io non li voglio intendere di gaggati, perché se poi mi va tutto anche io devo stare molto molto attento, capito? Ecco, infatti, adesso vediamo un pochettino, per mettere quei soldi lì, faccio fare quel lavoro, l'ammulatore, dopo il tacco vecchio ci metto quello che mi ha tagliato, ci metto nuove, dove erano prima, dove era proprio un accidente a me, e così me ne sono a posto, ci metto a fare la lapida e fate la gola, se no non si muovono più, e altro palo da 4, 5, 6 metri, quello che è telescopico, dico di lusse e metto i tiranti. Eccola, com'è? C'è uscito male. Facciamo adesso? Non c'è un fisco, c'è uno zio, c'è. Adesso? Adesso. C'è. Adesso? Adesso c'è quasi o no, più o meno sì, a volte sì, a volte no. C'è? Sì che c'è. Quando si va che c'è la linea? No, va, metti l'altro che è meglio, questo poi fa schifo il radio. Non riesce a gattare un abbinamento, visto, boh, non riesce a comprendere te. Fisco, c'è il fisco? Ma fisco c'è. Ciao, Cla. sono fatto le prove, mi sento, sto cercando ammiramenti, no? Per carità. Adesso non c'è l'ufficio, no? Non c'è, ma stai gracchiando, che cosa male. Basta che abbasso. E adesso gracchiando sto. Ancora. E adesso gracchiando sto. Adesso è proprio bassa. Adesso gracchiando sto. 1, 2, 3. Adesso è bassa e gracchiante. Ah, di quelli sì. Adesso vedi un po'. 1, 2, 3. Sta per appena migliorando, vai ancora. Più alto. Ma vai un po'. Aumento di volume. Aumenta, aumenta. Sta aumentando. 1, 1, 2, 3, ola, ola, ola, ola. Vai ancora. Sai che c'è la, il phantom spento, ecco perché non funziona. E adesso? Ola. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ola. Sta migliorando un pochettino, vai ancora. Ma vuole più volume ci vuole? Sì. E basta dirlo, che questo voleva ogni turno, adesso com'è? Leggermente meglio, trova i turni un pochettino. Allora, c'ho un po' di bassi, qui un po' di gay. Com'è? 1, 2, 3, ora. Sto leggermente migliorando, ma non mi piace proprio per niente, la verità. C'è un effetto strano. Come se fossi buffato. Adesso, adesso metto tutto, i parametri sono a zero adesso, della regolazione, metto tutto a zero. No, no, non mi piace per niente, non lo so, non va bene con la pericolosa, ma è una modifica strana che hai fatto. Allora, attaccati il coso, l'altro parecchio con le cuffie, ti ascolti, e ti dico che dicevo che ti sto dicendo, vedi, così ti leggo lì un pochettino, mi male, come che bambino così me. Cazzo, dove buccio veramente? Vabbè, dai, lo stacco, non te l'altro, ciao. Ma prova la cazzo con le cuffie, non te lo stacchi, ti metti con le cuffie. C'è la paio di cuffie, mi sembra, cioè, già mi ricordo. Stacca le cuffie, ti rendi conto come stai uscendo. E ti fa la regolazione, non te che ti ascolto io, per dire. Lascia la tapparico senza antenna e così ti rendi conto di ti fa la regolazione, fai ora prova, alti, bassi, medi, ti fa la regolazione giusta, capito? Se no non ce la fai così a uscire come si deve, perché la regolazione è strana, perché cioè, detto da me che magari c'è un tapparante solo e tu che ce l'hai a fianco con le cuffie e ti ascolti meglio la verità e ti rendi conto di come esci, quello ti voglio dire, mi hai capito meglio. È una modulazione molto molto strana, molto molto strana, non so. Rimane chiusa, in teoria, chiusa, sembra chiusa rimane. Infatti è chiusa. Perché non c'è la differenza, c'è qualcosa da regolare, senz'altro, toni, alti, ma eccetera, eccetera. Il mix è una buona cosa, la verità, perché ti regola tutto, però forse per la caricazione adesso non va bene, niente di strano, c'è stata differenza. Se usa magari il mix per un baracchino, per quel baracchinato baracchino che c'ha, quello nato che c'ha, esce veramente bene, niente di strano. Poi così come va, la verità non mi piace proprio niente, ma è chiuso, chiuso, chiuso proprio, una modulazione proprio, ma che stai parlando con una busta di cellophane. Adesso sto chiamando qua, vediamo un po', 1, 2, 3, c'è le cuffie, così ci sono i medi, così ci sono i bassi, così mi do più gay, c'è il cavo, ecco quello, basta il culo, il cavo, non ne sono accorto adesso, dai, c'è il cavo a sostituire, adesso com'è? Si batte la placca di magia, mette meglio la verità. Guarda che c'è il cavo che non lo tocco. Cioè, dove si è tirato il cavo? Questo qua non va bene, lo cambio, da sostituire. Adesso ho perso anche aumentare il volume. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Com'è? No, un pochettino meglio, però però c'è sempre quell'effetto strano sotto. Anche adesso c'è quell'effetto strano. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ascolta, il processore di silicio, sì. Sì. Ecco il secondo processore, vero? Adesso non c'è il processore. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Abbassa un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ecco, vedi conto, stai dicendo come se fossi senza processore inserito, in pratica, con quelle, con attacchi quel microfono. Fare uguale, perciò identico. Adesso tu attacca il processore e ti guarda la differenza che c'hai, ascolta in cuffie. E già lo senti in cuffie con me. Boh. Così metto più bassi, così mi tolgo. Più medi. 3 più o meno 1, 2, 3. Io lo sento bene qua. Mi sembra, ma è. Non mi piace, sembra che sei soffocato. Sì, è musicata, masticata, boh. Ma mi pare soffocato, come se avesse il processore inserito. Attacca il processore, scende, tende a scendere, capito? E rimane soffocato la modulazione. Forse evidentemente non va bene il mix, non lo so. O non c'è l'impedenza giusta. E adesso com'è? Va bene? Sì, leggermente migliore, adesso perché c'è gli alti. E adesso? Un po' meglio va bene, la verità, lascia così là. Se va bene, lo seguo così. Fischiando sta, sì. Non fa fischiando, lascia così, fregate, adesso va bene. Adesso sto usando l'M5. Sembra la differenza, cioè, hai visto, già, cazzo, ti hai discorsi. Si nota da un chilometro. Vabbè, era una prova, no, che volevo fare già da tempo e ci ho provato, appunto, basta. Come si dice? Provare non costa niente, no? C'è una bella differenza, visto, vai, non parlo, senti, mi metti cuffie, e quando attacchi con il Dix rimane soffocata, quindi devi dare un po' di dominante di amplificazione, se tu sei a posto. Oh, dai, io vi saluto. Buonanotte, ci sentiamo domani, statene bene, stiamo mettendo a posto qua, che ho fatto due spostamenti. E niente, ci aggiorniamo domani, ciao Elio, ciao Antonello, ciao a tutti quelli che sono ascolto, buonanotte. Ciao Claudio, ci stiamo domani. Elio, ciao Claudio, se tutto va bene te lo metto un attimo, ti faccio una telefonata da vicino, se no che se non mi sequestrano a casa del mio suocero, no? Penso di no. Dai, ti chiamo domani se per caso, dai, ciao buonanotte. Va bene, sono qua, ciao buonanotte. Cosa vuoi ti sequestro? Dimmi. No, devo salire domattina che una suocera che era a vederci, che siamo già due o tre settimane che non saliamo a Sars. No, ne approfitto a portargli un po' di frutta qua dalla campagna, capito? Sì, vabbè, c'è problema. Se mi vuoi dire solo a casa, basta perché mi chiami e mi fai visita, già sono qua. Proprio non lo so se ce la faccio, perché devo passare da Claudio, se ce la faccio, per vedere alcune cose, e poi, capito, ma proprio il tempo che lascio mia moglie a casa di mia suocera, ne approfitto quando va Claudio, andato di vicino. E poi non so se ce la faccio anche la pelle, devo fare le commissioni e poi assassare con mia moglie, capito? Vabbè, quando vuoi non c'è problema. Già ti sequestro io, perché ti trovo anche tutto quanto, ma c'è neanche tornare a casa qualche giorno. Ti telefoni, sei sequestrato in casa mia. Ehi, cazzo. Ho già dimenticato di chiedere a Robert Claudio, domani glielo dico, questa Dynamo X500M, invece 510 com'era. Domani gli occhiali, cos'è me lo vuoi scendere? Come si deve? Cosa vuoi che dica io? No, è una tema per le U e per le V, capito? Da 5 metri. E me l'ha offerto le Franco, che me la vuole dare. Adesso vediamo, se va bene la prendo. Va bene anche la X%, la cazzo fa 5 metri di corso, va bene come uguale, non cambia nulla. Ma se faccia buio, cosa ne fa? No, che cambia, fregato che cambia. Quella che c'è Stefano, no, è più piccolo, va bene, Stefano se deve cambiare. No, poi vabbè, ho ordinato un HF che mi arriva domani mattina. Per la verità mi ha già chiamato il corriere stasera e ho detto purtroppo non c'ero, me l'ho portato domani mattina, capito? Ho capito, quindi sei tutto messo male. No, messo male. Devo prendere solo il cavo, devo ordinare il cavo. E sarebbe domani fare l'ordine del cavo con tutta la traversa che mi serve e poi se tu sei disponibile venga a prenderti e ti ringraziamo. Quando vuoi lo sai, te l'ho sempre detto, sono sempre con te, ma te lo scendo dal petto, solleva. No, però non so se metterli i pali telescopici oppure pali interi, come mi so come è fatto con quello, mi fanno partire da giù verso su, capito? Ah, perché sei la salsiccia dell'asino, va bene lo stesso, quando è dritta, la blocchi così, ammazzi l'asino, bello tettelo poi, lo congiri. Sono più male che sei, cazzo. Francesco, se mi prendere pali telescopici o pali normali, pali fissi, da 5-6 metri. Ho fisso 6 metri d'acqua, l'avevi già detto l'altra volta. No, cazzo, se il palo d'acqua sta a ridere, se ci metto ci metto un palo a 60, cazzo. Ma così, via palo da un pollice di acqua, fregate, te lo sto dicendo io. Ho tutto quello che ho già veggia, voglia. No, non ho letto un'inchiesta. Come quello là che ho messo dove c'è l'antenna della 27, così grosso. Ma come ti pare di piaccio, se vuoi ti dica io, comunque un pollice va bene, te lo sto dicendo l'altro giorno. Anzi, da oggi te lo sto dicendo, lo vuoi capire. Se metto di palo di acqua, va benissimo. No, se lo giudisce, è zingato e tiene 10-15 anni tranquillo. E va bene, è anche leggero da sollevare. Ah, si impiega quel palo lì, da un pollice di acqua. Ma come quelli che dice, ma quelle che misura 2-3 cm, di diametro, 2 cm. Ah, mi sembra che un pollice è 40, adesso mi ricordo con i millimetri. Non mi ricordo solo la verità. Comunque sia, già tiene, non ti preoccupare, già tiene. È anche pesante, no? Se metti di palo l'acqua, non ti preoccupare. Telescopico viene continuare a sollevarlo anche perché tende a piegarsi, quindi lascia perdere. Ma infatti non ne volevo prendere il telescopico. No, no, vabbè, da 40 va bene, cioè da 40 sì, ma di meno no. Infatti una mattina passo anche via la Sidermet, vedo cosa c'hanno di palo fisso, se ci vanno a 6 metri, lo prendo a 6 metri, capito? Un pollice 25 e 4. Ecco, un pollice 25 e 4, giusto. Vabbè, non c'è problema. Me l'ho dimenticato, siccome io quando accetto i buchi non controllo i pollici, controllo solamente il diametro. Ehi, il diametro, questo col millimetro di trasmesso. Vabbè, comunque hai ragione, amico, dai, un pollice un quarto, così. Ciao Giulia, ben ascoltato. Un pollice o quattro, non vedo se ci dà sindaco, penso di sì. Sì, loro lo vedono tutto a ferro, chissà cosa è zingato. E perché se tu mi l'acciaio, cosa mi fa a ferro vecchio? Prendo un acciaio tutto intero e se la piglia in culo. E magari domani è un nuovo per questo. Sì. Così metto già i due pali, uno per la KF e l'altro per la V e la U. Sì, sì, sì, sì. Fatto, così sono quattro pali sul tetto. Sono contento. Anch'io. Così poi mettiamo la bandiera d'Italia. Con le lucette rosse per gli elicotteri. E Giulio, se non c'è sonno, sa di fare l'Inghilterra che se ne va a casa. Io sì, ho visto, ma non posso parlare. Ciao, ciao. Ciao Andrea, ciao Emilio. Ehi, ciao Giulio, tranquillo. Lo sappiamo non per parlare, sono svegli tutti. E noi siamo quelli che fanno tardi. E poi qua, vedi, possiamo parlare, io posso parlare perché sono lontano da casa, quindi non disturbo nessuno, faccio quello che voglio, prove contro prove. Pompugno. No, Pompugno è andato in bagno. Topo! Poi ogni tanto se ne scappa. Ma era un po' questo cavo del microfono, non sapevo che cos'era quel lei. Sono qua. Sono andato a cambiarmi l'acqua. Immaginavo, perché lo stavo dicendo a Giulio, che lui forse era andato in bagno, e via. Ma almeno sta arrivando a casa, ma quale schifo qua, cazzo, un sapore schifoso. E vabbè, quindi in bagno, forse l'abbiamo fatto fuori, ha scritto uno, se lo vuole, e gli ho scritto che era disponibile, adesso devo mandare le mie. Assolutamente no, assolutamente no. No, e voglio poco smontarlo e toglierlo da qua, capito? No, no, non mi interessa, non è che tengo 50.000 apparati. Ce ne vanno pochi ma seri, però ogni frequenza ci vuole il suo apparato serio, boh. Ah, meglio così. Non lo so, ti ho fatto il film l'altro giorno, mi ha questo apparecchio qua, come va? Di radio? Tutto va bene, va benissimo. Quindi ho fatto una buona modifica, visto? Non sbaglio, cazzo, adesso sono tutti quelli di quel film, ha fatto proprio l'altro apparecchio, adesso devo cambiare l'integrato audio in ricezione. Questa c'è la base a posto, mi tocco il PDA 2003 e gliene metto un altro, nuovo, gli metto un disfattore molto più largo perché con il mio è piccolino, quindi come scala l'estate va in saturazione. Ah, capito. Andrà bene, andrà bene. Boh, le 140 forse non l'ho più, adesso vediamo. Chi se fa una cosa del genere ti inculo questo, produce, non ci vengo più queste antenne. Marco se mi chiami, lo faccio a Pompiglia. Me ne sto a casa, mi mangio il gelato vicino a casa tua, mi piglio quattro coni e li mangio tutti davanti a casa tua e morto. Ma non so se volevo, la verità, boh, questa volta non sta fanno di non darlo, che me lo tengo con una parte di scoperto. Boh, adesso vediamo. Vabbè, d'accordo. Domani vediamo cosa mi dice quello, poi vediamo. Non ti preoccupare. Già. Il primo coso che trovo, vado a Baciucci. Quanto era? 2,50, voglia che me ne esce un mese e tombo. Sì, cazzo. Usiamelo. Dimentico. Il mio primo amore dimentico, vado tutti i giorni a brasiliane. Dai, vediamo. No, a parte che io se lo vuoi io lo sto andando. Guarda, l'ho messo anche su subito.in, ma tanto chi mi chiama adesso? Dico che l'ho già fatto, non lo so. No, perché io ho anche l'interfaccia, capito? Per fare se pick up 31. Io non so, ti preoccupare per quello. Quella conservatora ci serve per l'altra parete. Mentre quella non mi serve per la verità. Quindi appena sono un attimo vado a è un casino, cazzo, per uscire, cazzo, vedete, che ho un'acqua, cazzo, mi sono preso. Adesso noi vediamo un pochettino cosa vedi che è quello, poi ti sa dire qualcosa. Se roba di un mese, te la faccio sapere. Se è roba di più, allora sai cosa devi fare, fregatene, a fotti dimmi. Adesso vediamo un pochettino, non dipende da me, dipende da loro. Capito? Per darmi l'assegno. Una volta avevo dato l'assegno del TFR, e tu già sai come vanno queste cose, con l'INPS, quindi. No, non lo so. Non ho avuto mai a che fare con l'INPS. Nel senso che non merita il soldi, allora sono superati. Vabbè, ma io invece devo farmi ridare, sono 12 anni di lavoro, caro mio, figurati, 1250 euro ogni mese. Quanto sono 12 anni? Lo so, sarà una mensilità al mese, penso, all'anno, penso. Esatto, sì, sono 12 anni, il numero di quanto devo uscire. Allora, vediamo un poco, dipende da quello che mi dicono ormai. Figlia, signori, mezzanotte, la mattina mi hanno aperto, dovevo fare un sacco di connessione a Sassari, e mi hanno tutto il letto. No, c'è un passaggio che ti metto a fuoco alla macchina, mia. Quindi fatemi vivo. È sempre quella macchina che la macchina purtroppo è morta dal meccanico. Se ti faccio fare la più di cosa, mi dici? Ma dice che mi dà ai cosi, poveraccio, cazzo. Quello che fa lato zero, che dice che mette la cacca, che hanno sequestrato l'appartamento, cazzo. E i servizi. A chi? A chi cosa? Cosa non ha fatto? Ha sequestrato l'appartamento alla banca. Dice che i servizi se l'ha venduto da poco. Perché è mezzo la cacca, non ha più credito nessuno. Ma che te l'ho detto? Ma cosa sto dicendo io? Cazzo, mi che c'è una persona che mi dà quella roba di me, l'ha detto lui. Se io non avevo detto cazzo, sto dicendo, l'ha messo male, mi ha messo male forte. Beh, mettiamo quello che sento. Beh, io adesso non te lo so vederlo. Che cosa mi dicendo? Mi ha detto un amico che è una persona credibile, non è che sia un fanfarrone, capito? Quindi per quello che sto dicendo, anche lui è suo padre, capito? Ma mi sembra impossibile, lui faceva, dice ancora, dice, la banca ha sequestrato l'appartamento, adesso si è venduto il service, e lui diceva che il service lui, quindi cosa che sento anch'io, figurati, per fare le serate. Un cuore, il tuo cuore ci aveva le apparecchiature e tutti l'hanno sequestrato. Si è venduto, non sequestrato. Vabbè, intanto ne sentiamo un nuovo. Vabbè, purtroppo la crisi c'è per tutti. Ma andrà bene, purtroppo così. Andrà bene. Sono contento. Non per lui, no, il cazzo, ci mancherebbe. Ma vabbè, lui ha sempre giocato un po' con le cose, ha fatto sempre dei pezzi balurdi. Vabbè, comunque, sono cose da saperne. E gli aveva stata raccontata cosa ha combinato. Ui. Vabbè, peggio per lui, lui è sgarrato e non lo vuole più nessuno. Secondo me, guarda, lavorava bene, mi. Del tipo che ha la faccia di culo, quello sì, quindi per me diceva tu, speriamo altro che lo prendono a fare a meno serate, a cantare. Così almeno si rifà un pochettino, ma ha detto, adesso se le bombe sono molti. Scusa, anche non è detto può andare bene, o in gallura, ma no, qua muori di fame subito, ha detto. Qua è tutto morto, usa, che niente. Vabbè, io sono fuori da quel giro lì, non mi interessa più. Hanno rovinato la piazza, lui un altro, e adesso sono contenti di quello quello che succede. E infatti, Asco, cosa che fine ha fatto? Guarda Santi, che cazzo fino a fatto? Non ho più visto e sentito, boh. Era sempre, mi sembra, sai, degli anni 5 stelle, adesso non mi ricordo. Che cazzo fino a fatto quello? Era cantante, presentatore, boh. Lasciamo perdere. Non si sa fine alle fatte di Chico. Cazzo, uguale. Abitava a Fiacca Falcone, io lo sai, si chiama, abitava a Fiacca Falcone, proprio nello stesso palazzo abitava, non sapevi? Beh, non so, non ho frequento queste persone, boh, non lo so, no, aveva la televisione per un paio d'anni e poi l'aveva portata via perché, come si dice, niente soldi, niente amore. Io l'ho conosciuto, anzi conosciuto, me l'ha fatto conoscere a Paoletta Falcone, la verità, perché abitava attaccata a lui a casa, in Galtica, nella stessa palazzina dove abitavo a Paoletto, anzi a casa a fianco più che altro, mi ha detto che era, figurati, quindi ho sempre che si era sposato, e poi mi ha fatto pure, sono andato, quindi ha detto, meglio così, sta facendo carriera, è passato a Olbia. Quindi canta, fa programmi, ma no, meglio così, poi sparito la circolazione. Non sono saputo più tanto, sembra un lavoro che è iniziato, ragazzi. No, mi pare che facciamo una cosa tipo roba, nei bar mi pare che faccia dei giochi, non sono capito di che cosa, bro. Non lo so, non sono mai entrato in merito. Figurati, Cocco, è andato bene anche lui già. Con l'Iaia. E vabbè, prima o poi ce lo aspettassero. Troppo. Quando la gente non lavora seriamente, si gioca, alla fine i giochi prima o poi si interrompono e arrivano le mazzate. Ma cantava bene la verità, eh? Io non ho visto che io cantare, allora comunque cantava bene, c'era una bella voce, era bell'intonato. Tantissimo. Vabbè. È giunta mezzanotte e io me ne vado a mano. Vabbè. Ci sentiamo domani, allora io. Buonanotte. Stavi bene, ci sentiamo domani. Sei in Puglia, sono qua a casa. Fammi uno squillo, già so che non che. Non ti preoccupare, tu, non ti preoccupare. Certo, detto, non lo so. Poi dico, ma mi pare che mi arriva anche la patente e devo andare anche a ritirarla, boh. Mi dovranno chiamare. Non lo so, vediamo se ce la faccio, però c'è un sacco di commissioni anche da fare, altre cose, boh. Ma se beccato ti faccio uno squillo. E io che a me mi arriva la patente per la Villa Moretti. Domani. Ma quella io ce l'ho già. Poi domani sera c'è la partita. Oh via. Domani sera c'è la partita. Domani sera sei bello tranquillo, mettiti un po' di birra in fresco, al limite un po' di vino, nel caso segnano gli altri, beviti il vino che te lo metti prima, così almeno non vedi la figura in mezzo che facciamo. Io ho fatto la stessa cosa, mi ho messo da parte 7 bottiglie di birra nel caso segna, 2 ogni segnata. Nel caso perde, c'è un bocciolo di vino. Ah, ecco, ti dai il vino. Ma io domani devo travasare, a proposito. Domani devo travasare il vino, Così bevo per dimenticarmi le susa che prende domani sera. Nel caso, ma speriamo di no. Io speriamo che i balotti li faccia quello che deve fare. E se facete al limite Cassano, ma non c'è Cassano, è bello quello. Fossi stati qua tutti e due, sono sicuro che avevo fatto Fabrile ieri domani, invece non so cosa voglia fare quello, speriamo che non c'è trovato qualcuno che può interessarlo, perché è bravo, meglio di Buffon. Il Buffon ha dato la vita di quel e gli ha fregato le, la cosa di capitano, cazzo, di titolare, che mi immagini che sta crepando Buffon, c'è un santo, cazzo, in porta, meglio di lui. E lì sono scolare. Sì. E lì si di scuola. No, com'è c'è Buffon? L'ho già detto. Purtroppo c'è Buffon. Sì, tranquillo che se gli segnano 1-0 lo toglie subito fuori, poi ci mette un altro il portiere. Tra l'altro è molto più bravo di lui, non ti preoccupare, già l'ha visto da poco, quindi Buffon ha finito la carriera, lo dico io, ma ha finito forte. Lui sarà mi, massimo massimo, questo qua non c'è più, lo dico io, c'è quel sabato, si riscola a posto suo. Sirigu! E te lo dico io, tutti vogliono quello, lo sai come fare, ma tutti quanti hanno detto vogliono quello lì, non vogliono Buffon, vogliono solamente quello come portiere, che è molto meglio di lui, quindi Buffon ma la carriera sarà già giocata, e come le va a ritirarsi, a starsene a casa, a fare una in famiglia, se va bene in cubo, intanto ormai il prossimo anno non c'è più lui, Buffon, ormai fa la fine di trof, se va in pensione, che ci metteva a lui. Beh, ormai anche la sua età, dai. Sì. No, Sirigu è bravo portiere, veramente. Ha fatto delle grandi cose. Ma purtroppo domani c'è Buffon, l'hanno già detto. Si è ripreso e quindi ci sarà lui. Ma buona, fatto lei, mi stanno andando a dormire. Mi sembra che suona il campanello. Ciao, alle prossime, buonanotte, ciao, ciao Giulio se sei all'ascolto, buonanotte, alle prossime, ciao. Ciao, ciao Elio, buonanotte. Ciao Giulio, buona mattina. Ciao Elio, buonanotte, buon tutto, ci sentiamo domani mattina.